Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, vi augurano buona domenica e buon ascolto Beatrice Montini, Elisa Moretti, Camilla Lattanzi, Alessandra Giannini, Massimo Chiari, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci. 12ª puntata di Restiamo Animali. Ormai da inizio marzo proviamo a vivere, pensare e agire in modo veramente cruelty free. Il piatto di oggi è davvero ricco: pavoni rotanti, permacultori, ragionieri in fuga, i limiti filosofici dell'intelligenza umana, colazioni radical chic e capitani coraggiosi, scettiche mamme di figliolanze vegane. Tutto questo assieme a tanta buona musica nella trasmissione di oggi e poi nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com e nella homepage di controradio.it. E visto che parleremo molto di agricoltura, Giuseppe, rivelaci la pacciamatura musicale di oggi. Il tema conduttore di oggi sarà Oriente, vi disoriento. Abbiamo iniziato con i Deep Forest e Peter Gabriel con Wild Heart Sleeps e proseguiremo con il pesce, che per il buddismo tibetano è simbolo di buon auspicio, indirizzato in questo caso alla nostra dedica. Il brano è composto da un bicchiere che ci auguriamo possa essere sempre mezzo pieno. Mi sono accorto che non ho ancora fatto ascoltare uno che è considerato fra i vegani più sexy, ovvero Prince, che ci invita a fare una colazione vegan in compagnia di stelle marine e bevendo del caffè. L'Oriente disorientato è affidato a due personaggi vegani che con la loro stravaganza hanno attraversato le mode. Il primo è riuscito a sdoganare il transgender al grande pubblico, riuscendo ad essere idolo delle folle e poi ricadere nella polvere per storie di dipendenza. Lui è stato tutto. Non poteva mancare naturalmente il trip mistico, facendosi chiamare Gesù ti ama e cantare dei mantra in yam. L'altra, disorientata ma molto accorta, è stata una punk berlinese. Ha stravolto canzoni, ha affermato di essere in contatto con le divinità indù ed oggi canta di un Gesù personale, lo stesso dei Depeche Mode. Oggi ascoltiamo La Nina in versione etno-indiana in onore delle nostre collaboratrici vestite come devote in sari candidi, mentre io, Lorenzo e Massimo siamo conciati dai remiti persi. Un incontro tutto orientale, quello fra Ravi Shankar e il violinista yiddish Yehudi Menuhin, che nel lontano passato hanno fatto un album insieme, prototipo di ciò che oggi si chiama World Music. Val Lauri incontra Telesio attraverso il sogno di Battiato, mentre il Marocco si incontra con l'Inghilterra del Blair per un momento fuori dal tempo. Il finale è tutto sincopato, affidato al fior di lodo dei Radiohead. Guardate, leggete, scrivete e ascoltate restiamoanimali.wordpress.com. E per la serie Capitani Coraggiosi, o forse è meglio dire O Capitano, mio Capitano, la dedica di oggi è per l'eroico capitano Paul Watson. Paul Watson è stato arrestato in Germania il 12 maggio scorso. È il fondatore di Sea Shepherd e a suo tempo è stato cofondatore di Greenpeace. Sea Shepherd è una delle più note ed efficaci organizzazioni che si battono contro la caccia alle balene e in genere contro la caccia di tutte le specie marine protette. Detenuto a Francoforte, è accusato di violazione del traffico navale in Costa Rica per un fatto accaduto nel 2002, mentre Watson era impegnato a documentare operazioni illecite di caccia agli squali. Tra Costa Rica e Guatemala, infatti, avvengono intense stragi di squali. Gli animali vengono prelevati, vengono tagliate loro le pinne e poi sono rigettati in mare mutilati. Ovviamente, senza le pinne, gli squali non riescono a nuotare né a procacciarsi il cibo, quindi si depositano sul fondo lentamente e muoiono dopo una lenta agonia. Paul Watson rischia un processo in Costa Rica. Nell'11ª puntata di Restiamo Animali avevamo intervistato Alberto, un attivista di Sea Shepherd toscano. Invitiamo tutti a tenersi informati attraverso il nostro blog e quello di Sea Shepherd. notizie, interviste, attualità. Nicola Faccincani ha 45 anni e nella sua vita precedente faceva il geometra a Brescia. Un anno fa ha acquistato un terreno di diversi ettari in Lunigiana, vicino a Fivizzano, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove ha aperto un agriturismo biologico con cucina esclusivamente vegan. Coltiva prodotti dell'orto senza utilizzare concime animale. Non ha animali da lavoro o da reddito e punta a vendere ai gruppi d'acquisto la frutta del suo frutteto cruelty free. Oltre 180 piante da frutto con molte varietà antiche, oltre a un castagneto e noccioleto. Come fa? Nicola utilizza un compost di cortecce di alberi caduti nel bosco, foglie cadute, paglia, bucce, scarti di cucina, ottenendo un fertilizzante vegan di discreta qualità. L'agriturismo di Nicola è un vero paradiso per vegetariani e fruttariani e per tutti coloro che desiderano rilassarsi in una località incontaminata, lontana dall'inquinamento dell'aria e dal rumore, dove, ci dice Nicola, spesso i caprioli arrivano e brucano nel frutteto assieme a una miriade di altri animali selvatici. Chiedo a Nicola che cosa è successo nella sua vita per svoltare e decidere di vivere in campagna. I motivi sono diversi, soprattutto diciamo il desiderio di cambiare vita, di iniziare a produrre da sé diciamo i prodotti quotidiani di consumo per l'alimentazione e soprattutto staccare con la vita della pianura padana che è stressante. Poi il lavoro con questa crisi scarseggia sempre di più. Facevo geometra diciamo con contratti a progetto e ogni 4-5 mesi scadevano i contratti, dopo spesso e volentieri c'era da cambiare ditta, e, insomma il lavoro era un po' a singhiozzo e soprattutto non dava soddisfazione. Per adesso io sto cercando di rifornire i gruppi di acquisto qua della zona, diciamo i più vicini sono a Spezia, a Berici e a Massa. Di sicuro non ho ancora raggiunto un'autosufficienza dal punto di vista economico, ecco, nel senso che per ora sono solo spese. Sto raschiando un po' il gruzzolo che ho messo da parte in questi anni di lavoro, ma io prevedo che nel giro di qualche anno così si riesca a raggiungere l'autosufficienza anche dal punto di vista economico. Tu, Nicola, mi hai detto che produci in maniera cruelty free. C'è sensibilità nei gruppi di acquisto per questo tuo valore aggiunto o è una cosa un po' poco capita? È una cosa molto apprezzata, anzi ti dirò la verità, i gruppi di acquisto prima di almeno questi della zona, prima di andare ad acquistare un produttore, fanno una visita in azienda e poi cercano di capire anche le intenzioni e le modalità con cui uno lavora. Il discorso vegan, alcuni lo apprezzano e lo condividono, per altri forse è ancora presto. I vegani convinti purtroppo in Italia sono ancora pochissimi. C'è chi ci arriva per un ragionamento di tipo etico, chi ci arriva per motivi di salute, insomma ci sono tante strade, però prima o poi insomma io credo che sia il futuro, perché il pianeta non ce la fa più. Cioè il discorso degli animali, anche se uno fa un allevamento non industrializzato, cioè non fa la zootecnia classica con gli animali in batteria eccetera, però anche con pochi animali diciamo che non c'è un futuro, è antieconomico, ma credo che proprio il pianeta non ce la faccia più. Io ho visto altre aziende biodinamiche che però non utilizzano sostanze animali, sono molto molto rari, però anche in questi esempi qua alla lunga, nel giro di alcuni anni, io vedo che riescono a produrre ottimi prodotti di migliore qualità. Diciamo alla fine i costi diminuiscono perché non devi spendere per i trattamenti. Un trattamento di equiseto non ti costa nulla. È logico che io devo raccogliere l'equiseto, fare il macerato, fare un decotto, poi dinamizzarlo, darlo sulle piante, mi costa zero in termini di acquisto, però ci ho messo dell'energia. Tu facevi il geometra a Brescia. Come hai potuto cominciare una carriera così diversa? Voglio dire, il mestiere del contadino è parecchio diverso da quello del geometra. Io avevo già qualche base da bambino e poi da ragazzo, perché sono nato e cresciuto in campagna e avevo i nonni e gli zii che coltivavano, facevano coltivazioni, l'orto familiare, ma in grande stile, nel senso che producevano quasi tutto, ecco, e ho imparato molto da loro. È logico, qui adesso si parla di ettari, quindi la cosa è moltiplicata, ma in termini di sforzo, di energie che vanno dalla mattina alla sera, ecco. E quanto sei più felice rispetto a quando facevi il geometra? Non c'è confronto, cioè qui la fatica c'è, ma non, alla fine non la senti nemmeno, perché cioè, è una cosa che ti dà grande soddisfazione vedere una pianta che già mette fuori frutti, oppure non so, seminare, vedere che nel giro di pochi giorni ci sono già i germogli, che riesci già a raccogliere frutta e verdura, insomma queste cose qua ti danno grande soddisfazione ogni giorno. Presso l'agriturismo ortolano di Nicola Faccincani si possono organizzare seminari, convegni, laboratori. Ha 10 posti letto e sta sistemando un vecchio fienile per farci un locale ampio per attività tipo yoga, massaggi, corsi di cucina vegana. Per contattare il bioagriturismo vegan l'ortolano potete scrivere a Nicola all'indirizzo email nicovega@libero.it. Tutte le informazioni saranno sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Restiamo animali. To open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Sul numero di maggio di AM Terra Nuova la nostra attenzione è stata catturata da un articolo scritto da Luca Denti e Federica Iannacci intitolato Permacultura. Campo base sul Gran Sasso, un'esperienza diretta di un gruppo di amici che ha creato un orto nel cuore dell'Abruzzo. La permacultura è un approccio basato sulla cooperazione rispetto alla competizione e sull'attenzione agli ecosistemi e quindi all'interazione fra l'uomo, gli animali, la natura. Ne abbiamo parlato con Deborah Rim Moiso, curatrice del volume scritto da Patrick Whitefield Permacultura per tutti, edito da AM Terra Nuova. Deborah, in un passaggio del libro si legge: la permacultura non si basa sulla difesa dei diritti degli animali, ma questi diritti emergono quale parte essenziale del sistema. Puoi spiegarci meglio questo concetto? Sì, magari prima fare un passo indietro, facendo una brevissima premessa, che la permacultura appunto non dà dei diktat, dei dettami, delle regole su come si fanno le cose o su come si trattano il terreno o gli animali, però parte da tre punti che vengono definiti l'etica della permacultura, che sono la cura della terra, la cura delle persone e l'equa condivisione delle risorse. Da questi tre principi ne nasce un processo che mette molto a fuoco l'osservazione. Osservare che poi porta all'attenzione ai cicli energetici e a tutto quello che è chiudere il cerchio, chiudere il ciclo, non fare rifiuti, tutto questo tipo di discorso. La permacultura si basa molto sulla mimica degli ecosistemi, quindi guarda come funzionano gli ecosistemi e cerca di riprodurne i processi, non di fare l'ecosistema uguale, ma di riprodurre come funziona, sia per un motivo che riporta all'etica, sia che perché è molto efficiente, gli ecosistemi di solito sono efficienti a fare le cose, a trasformare l'energia solare in vita, in vitalità e tutto questo. Guarda, gli animali, dicevo, non ci sono regole, ognuno agisce secondo coscienza, secondo buonsenso e logica, però la permacultura indica di guardare l'animale nel suo complesso, quindi come individuo, come specie, non soltanto a quello che produce, ma proprio a come si comporta l'animale all'interno di un sistema agricolo, di un ecosistema. Quindi per esempio la possibilità di usare le galline per pulire l'orto, si lasciano entrare nell'orto per pulirlo dai parassiti, dagli infestanti in inverno, se non si mangiano l'insalata, o i maiali per dissodare. Ora, se con un animale ci lavori insieme, se lo osservi costantemente, è un po' difficile maltrattarlo, nel senso viene abbastanza naturale vivere la presenza di animale con un compagno di viaggio che lavora con te e il rispetto viene veramente naturale. Esistono già esperienze di una permacultura che si ispira anche alla filosofia vegan? L'argomento è affascinante, direi che in parte è ancora inesplorato. Posso dire che la maggior parte dei permacultori segue una dieta e quindi una vita o vegetariano o semi-vegetariano. Di permacultori vegetali questo è un fenomeno meno diffuso, però esiste. Penso che in parte ci sia una difficoltà relativa al mantenimento della fertilità dei terreni senza apporto di sostanza animale. Però ci sono delle tecniche come il svescio, quindi la coltivazione di erbe quali la medica, il trifoglietto, il favino, che di per sé arricchiscono il terreno, l'uso delle consociazioni, le cosiddette piante amiche, e altre pratiche di questo tipo, quindi che fanno un maggior utilizzo del mondo vegetale. Detto questo, però le cultura vegana, almeno sulla scala della fattoria, dell'agricola, quindi al di là del piccolo orto, dove è molto facile non introdurre animali perché gli spazi sono piccoli. Dicevo, le esperienze sono poche, ma io sono sicura che ci sarà qualcuno che raccoglierà la sfida. Magari qualcuno che ascolta oggi e ci vuole provare, e spero che ci farà sapere come va. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. E Shiva Shankara e Maheshwara. In questa trasmissione abbiamo parlato spesso di antispecismo. Chi ancora si domanda il significato di questo termine può trovare facilmente tutte le risposte ai propri dubbi nel libro L'antispecismo spiegato a mia mamma, sottotitolo Al mio vicino, alla mia collega, al mio amico. Si tratta di un'autoproduzione in stampa digitale della Troglodita Tribe SPAF, società per azioni felici. Non una casa editrice, ma il lavoro di due artisti, Fabio e Lella, vegani e antispecisti, che utilizzano la tecnica dell'autoproduzione creativa casalinga per realizzare libri fatti in casa con materiale cartaceo di scarto. Raccontano gli autori. Dopo aver ascoltato per migliaia di volte affermazioni quali «Ma la caccia non può essere abolita, perché c'è sempre stata!» «Per me è giusto mangiare animali, perché anche le carote soffrono!» Eppure i vegan sono razzisti con i carnivori, ma se liberiamo gli animali poi non sapremo più dove metterli. Dopo averne ascoltate di cotte, di crude, di acide, di ottuse, pensavamo di aver completato la nostra collezione. Ma un giorno, durante una festa, ecco giungere inaspettatamente il record dei record. Ma sì, anche i vegetariani mangiano il pesce, perché in fondo il pesce non è né carne né pesce. Fu allora che decidemmo che occorreva fare qualcosa. Ecco come nasce questo libro, che in termini chiari e semplici cerca di spiegare l'essenza dell'antispecismo rivolgendosi a tutti, dalla mamma al collega di lavoro. Attraverso il dialogo tra mamma e figlio si toccano i punti essenziali dell'antispecismo, con molti esempi pratici che rendono evidente la connessione tra lo sfruttamento animale e l'ideologia del dominio. Maggiori informazioni sul sito trogloditatribe.wordpress.com. Per incuriosirvi, vi leggiamo un brano. E quindi l'antispecismo si occupa solo di animali? No, di certo. L'antispecismo deve essere considerato una naturale evoluzione e non una derivazione del pensiero antirazzista, antisessista, antimilitarista e pertanto anche in assoluta antitesi con xenofobia, discriminazioni sessuali, sociali, etniche, culturali, religiose ed in generale con il fascismo e i totalitarismi di qualunque orientamento politico o natura, in quanto fautori dell'ideologia del dominio, dell'oppressione e della repressione. Si potrebbe anche dire che l'antispecismo è un movimento di liberazione. Si presta particolare attenzione agli animali perché nelle odierne condizioni non hanno la benché minima possibilità di liberarsi da soli. Sono gli oppressi fra gli oppressi. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo andati a trovare la comunità degli Hare Krishna vicino a Firenze. Krishna viene raffigurato con una corona regale decorata con penne di pavone. e la comunità degli Hare Krishna di Villa Virindavana a San Casciano Val di Pesa in provincia di Firenze tiene liberi magnifici pavoni nei boschi e nei giardini della sua tenuta. Siamo andati a trovare i pavoni per capire come vivono e come interagiscono coi devoti di Krishna e con i molti visitatori della villa. E come sono arrivati qui questi pavoni? Qui, se mi ricordo bene, loro vivono liberi ormai da tanti anni, non è che sono entrati a far parte della fauna della valle qua. Ormai si sono abituati, sono ambientati, però sono stati portati così in questo, a causa di questo legame e di queste storie che si possono leggere anche in vari scritti così, che appartengono alla cultura Vaishnava o vedica. Che tipo di rapporto avete con questi pavoni? Che tipo di integrazione avete trovato? Che equilibrio? Ma diciamo che, come puoi vedere, loro sono. Diciamo ora bivaccano, si stanno un po' rilassando. Sono animali territoriali, questa è una cosa proprio da veterinaria. Sono territoriali, sono monogami, ognuno ha la sua compagna, non hanno. Appunto, ognuno ha la sua zona nel bosco, nel giardino. Quindi si sono spartiti il territorio? Sì, si spartiscono e hanno bisogno di tanto spazio. Sì. C'è qualche aneddoto che mi potete raccontare sulla vostra convivenza con i pavoni? C'è qualche cosa di particolare, divertente che è successo tra loro e voi? Ogni tanto diciamo, sentono uno schiocco di dita e cantano a qualsiasi ora, no? Ah, sì? Primo mattino, sera, la sera dormono sugli alberi per difendersi dagli animali, volpi, faine. Quindi nonostante questa coda ingombrante riescono a volare? Considera che la coda la perdono, d'inverno rimangono solo le penne più rigide e poi con l'arrivo della primavera si forma proprio la coda del pavone con tutte le piume colorate. La perdono a luglio-agosto, infatti trovi piume dovunque, nel bosco, sul viale. Quindi le cose che fate con le piume di pavone le fate con piume cadute, quindi è cruelty free, insomma, non è che gli togliete le piume per vostro uso. No, le perdono naturalmente. Non ha un comportamento particolare quello della pavona con i pavoncini, è veramente una cosa che colpisce, che commuove a volte vedere sta pavona che insegna, giustamente come diceva Katia, per stare a terra per loro di notte è una condanna, perché essendo lenti, essendo grossi, non avendo molta velocità, sono prede, hanno paura. Volpi e qualsiasi animale predatore fa un banchetto, un autobanchetto con loro. Quindi verso l'imbrunire, quando il sole tramonta, fa ancora chiaro, li vedi che partono ognuno sul suo albero, sono anche hanno il loro dormitorio. Il loro condominio. Il condominio. Sì, infatti qui dietro ci sono alcuni alberi che vanno tutti lì, la maggioranza. Poi sono quelli che hanno i loro appartamenti. Le loro dépendance. Che sono più private. E la cosa bella è quando appunto la femmina istruisce, la madre istruisce i piccoli. E non, chiaramente non avendo le ali piccolini non riescono a volare sugli alberi, sui rami, quindi va vicino ai rami, agli alberi con i rami più bassi, insegna a volare da un ramo all'altro e piano piano, svolazzando da un ramo all'altro, arrivano in quota. Ecco. A quel punto però loro sono abbastanza incerti ancora sulle gambe, quindi la pavona si mette lì, se li prende sotto le ali e vedi che tutta la notte deve stare lì praticamente, perché se cade lei viene giù tutta la famiglia. Quindi sta lì con due o tre pavoncini sotto le ali, loro si rilassano, si dormono, e lei invece vedi che fa questo movimento, dondola tutta la notte per tenere l'equilibrio. Uno sforzo incredibile. Una dimostrazione di affetto, di dedizione materna. Dedizione totale. Non siamo d'accordo con quelli che dicono che gli animali non hanno l'anima, perché la parola stessa animale implica una vita, implica un essere che magari non è intelligente o cosciente quanto l'uomo, ma ha delle caratteristiche della vita che non si possono negare, innegabili. Ecco, se è uno che fa la ruota, se vuoi andiamo, ci avviciniamo così. Ah sì, andiamo a vedere. Vedo, sembra un cespuglio gigantesco, invece è la ruota di un pavone. Dispiegata in tutta la sua meraviglia. Quando vede qualche femmina che passa, immediatamente si predispone quella. Ma qualunque femmina o la propria? Perché loro sono monogami, però insomma strizzano l'occhio anche alle altre ragazze, mi pare di capire. Il corteggiamento lo fanno comunque. Poi vengono regolarmente snobbati dalla femmina, perché la femmina gli passa accanto proprio senza dare il minimo il minimo segno di interesse. Allora, intanto sono venuti fuori altri elementi, che esiste un gruppo stanziale e un gruppo itinerante. Il gruppo stanziale ha questa esigenza di spazio e quindi battibecca nel caso in cui lo spazio gli venga ridotto. Il gruppo itinerante invece è un gruppo che riesce a stare unito senza problemi, quindi è un gruppo di maschi e femmine, non litigano tra loro per accaparrarsi lo spazio, e questo ci dice qualcosa su come il nomadismo fosse forse una soluzione più pacifica rispetto al diventare stanziali e poi creare la proprietà privata. E ora stiamo andando a cercare il principe, che è l'elemento, il cuciniere, il pavone, che è più familiare con la dimensione domestica e in particolare con la cucina, perché il furbacchione ha individuato la stanza più interessante. E lui è, mi sembra, più magrolino, nonostante frequenti la cucina, è snello, è in forma. Mi sono avvicinata al principe sperando che mi corteggiasse all'istante, aprendo a ventaglio la sua fantasmagorica coda. Lì per lì ci sono rimasta un po' male. Ci è voluto un bel po' prima che il mio sex appeal entrasse in azione. Ma proprio mentre stavo per andarmene, girando la schiena sdegnata, ecco che si dispiega quella struttura pazzesca, che farebbe impallidire gli ingegneri della NASA. Non ci sembra possibile, ed è anche un po' folle pensare che gli antichi romani si cibassero di pavoni. Sarebbe un po' come usare la Gioconda quando finisce la carta igienica in casa. Villa Vrindavana ha anche un bellissimo ristorante vegetariano, Govinda, aperto venerdì sera a cena e sabato e domenica sia a pranzo che a cena. Per informazioni e prenotazioni 055 8200 54. Una visita ai magnifici giardini della villa e ai suoi fantastici pavoni è caldamente consigliata. Naturalmente niente fumo e niente alcol, e i cani devono stare al guinzaglio. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ma un vegano come fa a fare colazione? Con la bocca. Oggi vi proponiamo dei biscotti alla cannella e zafferano. Per una colazione primaverile, gustosa, leggera e radical chic. E vi diamo tutti gli ingredienti che vi propongo, si trovano facilmente anche nella grande distribuzione. Che schifo la grande distribuzione, no? Ti prego. Anche nelle distribuzioni alternative. Dipende la saccoccia cosa vi dice. Ho usato la farina di farro per rompere la dipendenza dal grano, lo zafferano che aiuta l'attività epatica e la cannella per favorire i processi digestivi, latte di riso che è dolce e che mi permette di usare meno zucchero. Ottima scelta! Gli ingredienti: 300 g di farina di farro, 60-70 g di zucchero di canna, 120 g di latte di riso, 70 g di olio di semi di girasole, una bustina di zafferano, un cucchiaino di cannella, 3 quarti di una bustina di lievito per dolci e poi, tocco sicuro, le mandorle. Niente cumino anche questa volta? Stucco un pochino. Cercherò di adattarmi. Preparazione. Iniziamo con lo zucchero. Se è troppo granuloso, tritatelo. Pochi secondi nel mixer. Poi scaldate un po' di latte di riso dove scioglierete lo zafferano. In una ciotola mettere gli ingredienti solidi e poi aggiungiamo il latte e l'olio. Impastiamo fino a che non diventa un composto omogeneo, elastico e un po' appiccicoso. Mettiamo la frolla vegan in frigo per una ventina di minuti. Ah, Ah, dunque esiste la possibilità di una frolla vegana. Successivamente scaldiamo il forno in modalità ventilata a 180 gradi e iniziamo a stirare l'impasto, naturalmente non con il ferro ma con il mattarello. Scusa, una domanda. Nel mio forno esistono varie modalità. Ventola con riscaldamento da sopra, ventola con riscaldamento da sotto, ventola con riscaldamento dalle parti, ventola senza riscaldamento. Quale di queste è quella giusta? Io farei un pochino. Cioè non lo sai? Non faccio mica il dipendente della zoppa. Vabbè dai, andiamo avanti. Stendiamo appunto l'impasto e con una formella ritagliamo i biscotti che verranno adagiati nella teglia su cui abbiamo steso la carta forno. Infine incastoniamo mezza mandorla in ogni biscotto e inseriamo i nostri dolcetti nel forno ben caldo per 15-20 minuti circa. Quando il colore vi convince... Mi devi dare un'istruzione più precisa. Qual è il colore che mi può convincere? Dal caucasico? Al mulatto. Spegnete a questo punto e fateli freddare. Ecco servita la colazione del mulino vegano che fa più sano l'italiano. Perché io... Sgrano vegano! Sostiene Vallauri. Se è vero che siamo così intelligenti, così spirituali, così colti, così progettuali, siamo a un livello almeno di maneggio dei simboli superiore certamente a quello dell'animale, ed è la ragione per cui per esempio non si fanno più i processi agli animali ma si fanno i processi ai padroni degli animali, eccetera eccetera. L'animale non è responsabile. Quindi ribadisco che la superiorità ci dà più doveri invece che più privilegi. Naturalmente si possono anche evocare dei casi in cui ci sono esseri umani che come sviluppo psicologico sono inferiori agli animali. Per esempio l'embrione, il feto, anche lo stesso neonato umano, poi tutti i minorati mentali gravissimi, tutti i casi limite di comatosi. Quindi è molto delicato stabilire in blocco la superiorità umana senza cadere nello specismo, cioè in quell'errore che consiste nell'attribuire privilegi a una specie in base a parametri che non sono semplicemente e tautologicamente quelli dell'appartenenza alla specie, perché poi quando questi parametri si distaccano dalla specie, per esempio si dice l'uomo deve essere protetto perché è più intelligente, quindi non perché è un uomo ma perché è più intelligente, in quello stesso istante si trovano poi degli animali molto più intelligenti di certi uomini. Allora lo specismo consiste nel motivare il privilegio di una specie in base a certi parametri e poi non rimanere fedeli a quei parametri quando si rivolgono proprio contro la specie protetta. Ecco l'errore dello specismo. Certo, c'è una solidarietà di specie per cui noi siamo più prossimi e quindi più sensibili a quello che succede a un uomo. Io non credo che sia possibile proteggere in modo infinito niente. Cioè tutte le protezioni confliggono con protezioni concorrenti, cioè la situazione della realtà non è una linea retta che si estende all'infinito, ma è sempre fatta come di un arco gotico romanico in cui ci sono due principi confliggenti e il tutto sta in piedi perché si trova un equilibrio dinamico tra i due. Per esempio, infinita libertà produce anarchia e quindi produce repressione, infinita repressione produce anarchia. Se voi prendete per esempio gli articoli della Costituzione, sono tutti il risultato di bilanciamento di valori ugualmente riconosciuti. Allora non si può proteggere infinitamente un animale, così come non si può proteggere infinitamente un singolo essere umano tenendo conto degli interessi concorrenti degli altri esseri umani, o non si può proteggere all'infinito un valore senza tenere conto che ci sono dei valori confliggenti. La realtà ha una struttura complessa e conflittuale, non c'è niente che possa essere protetto infinitamente, quindi da questa difficoltà non si esce fuori. Si leva il vento delle parole. L'armonia e la proporzione dirigono il pensiero. Deserta, brulla, la terra non più turbata. Quando si dice una redazione ben frequentata, il nostro professor Luigi Lombardi Vallauri, ospite fisso di questa trasmissione, è stato nominato socio onorario della LAV, Lega Antivivisezione. È un riconoscimento che ha ottenuto ieri assieme a Margherita Hack al congresso nazionale della LAV che si sta ancora tenendo a Castel San Pietro. E siamo in chiusura! Tutte le informazioni, foto, ricette, interviste e tutti i contenuti di questa puntata e delle puntate precedenti nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com e nel portale di controradio.it. Potete scriverci, mandarci notizie, informazioni, ma anche commenti e critiche a restiamoanimali@controradio.it. E mi raccomando, fino alla prossima puntata, restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.